Nasce oggi un patto che è inedito nel paese. Il patto per il lavoro e per il clima indica già rispetto agli ultimi 5 anni un investimento superiore al passato su tutto il tema della sostenibilità. È una sfida che guarda al futuro, ben oltre questa legislatura, ben oltre chi sostituirà noi nei prossimi anni. Vogliamo una completa decarbonizzazione al 2050 e quindi o la si mette in campo in questi 5-10 anni oppure non ci si arriverà mai. Vogliamo il 100% di energie rinnovabili al 2035, il 3% del PIL regionale da investire in ricerca, perché solo attraverso la ricerca e l'innovazione che potremo competere come sistema produttivo, economico e sociale con i posti più avanzati d'Europa e del mondo, e perché vogliamo che i cosiddetti NEET stiano sotto il 10%. Prevediamo in questa legislatura una mole di investimenti pubblici e privati attorno a 30 miliardi di euro. 4 obiettivi strategici: l'Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi, l'investimento sulla scuola, l'università e la formazione per noi è centrale, perché è sulla qualità di quello che si progetta e di quello che si produce che potremo attestarci ad una regione che ridarà lavoro a chi l'ha perduto e garantirà soprattutto buon lavoro, non solo un lavoro basta che sia. La società della transizione ecologica, perché abbiamo detto la sostenibilità come stella polare degli investimenti, la società dei diritti e dei doveri, a partire dal diritto alla tutela della salute e la qualità della vita attraverso i servizi di welfare che abbiamo visto in questa crisi pandemica sempre più devono andare verso la tutela delle persone anche a casa loro, la società del lavoro, delle imprese e delle opportunità, perché senza impresa non c'è sufficiente lavoro per chi lo cerca e per chi ha bisogno di dare sussistenza a se stesso e alle proprie famiglie. Con 4 strumenti: trasformazione digitale, patto per la semplificazione, promozione della legalità, perché è nella crisi economica che il rischio di vedere qualcuno che si presenta con soldi freschi per acquistare magari un albergo in Riviera o una manifattura in Emilia ci preoccupa. E poi la partecipazione come strumento democratico di condivisione delle scelte che facciamo. Abbiamo dimostrato che non è vero che fare da soli aiuta a fare meglio. Abbiamo detto che se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano ci vai insieme agli altri, ma soprattutto vogliamo condividere il più possibile, ed è per questo che anche nei prossimi 5 anni, o meglio nei prossimi 4 anni e qualche mese che mancano alla fine della legislatura, ogni 6 mesi a partire da oggi prevediamo la riconvocazione del patto per correggerlo, migliorarlo, aggiungere, cambiarlo, perché nessuno nasce imparato in un mondo che cambia così rapidamente a pensare che quello che diciamo oggi vale per sempre senza nemmeno essere verificato. Gli strumenti riguardano ciò che può fare l'Emilia-Romagna a partire dal proprio bilancio, ciò che può fare l'Emilia-Romagna col contributo dell'Unione Europea, ad esempio il settennato 2021-2027 che stiamo immaginando di scrivere attendendo di sapere cosa, ecco qui invece contributo decisivo dello Stato attraverso l'Europa, cosa potrà entrare nel Next Generation EU. C'è una grande opportunità e questa regione, l'avete visto nella classifica del Sole 24 Ore ieri, questo territorio dimostra di essere molto più resiliente di altri o di quasi tutti gli altri. Ecco, io sono convinto che se faremo bene le cose insieme, questa regione, quando ci sarà la ripresa, e il prossimo anno è per noi quello che deve, attraverso i vaccini in particolare, arrivare alla cosiddetta immunità di gregge che ci faccia dire che il virus certo sarà ancora trasmissibile, ma non spaventerà più o quasi più perché non ucciderà le persone o le farà ammalare il meno possibile, noi siamo convinti di essere una terra che è capace di partire prima e meglio degli altri. E mi permetto di dire, senza voler insegnare niente a nessuno, che spero qualcuno, anche a Roma, guardi a questo patto.